Buonasera, benvenuti, un caloroso buonasera alle signore e signori che sono venuti in questa biblioteca, ai nostri ospiti. Ecco, come potete sperimentare voi stessi, è un piccolo posto dove ci si muove, si organizzano parecchie cose, ma chiaramente gli spazi sono un po' quelli che sono e ci piace questa intimità che si crea. Ogni tanto magari avremo bisogno di variare un po' con degli spazi, sogniamo degli spazi più ampi e Polo forse ci aiuterà in questo. Intanto siamo molto contenti questa sera di avere con noi la dottoressa Gandolfi Martinelli, il dottor Dorfer Max e il dottor Martinelli, che ci forniscono questa nuova occasione di affrontare degli argomenti e dei temi che forse in questa biblioteca ancora non avevamo sperimentato, non avevamo conosciuto, non avevamo avuto l'occasione di così di incontrare. Questa biblioteca si occupa di tante tematiche e cerca di offrire anche attraverso le iniziative di promozione alla lettura e degli incontri con le autori e con le autrici delle nuove prospettive, delle nuove idee, dei nuovi suggerimenti, e mai come oggi un libro che parla del cambiamento può essere interessante e anche un motivo di speranza per tutti noi saper cogliere i segnali di come affrontare un cambiamento o più cambiamenti nella propria vita e nel proprio percorso. Ringrazio veramente di cuore i nostri ospiti, vi auguro una piacevole serata. Mettiamo sempre sulla sedia un volantino per chi volesse iscriversi e così rimanere in contatto con la biblioteca, è assolutamente gratuito, è un servizio pubblico che noi eroghiamo anche grazie alle tasse del cittadino, per cui ci teniamo sempre a pubblicizzarlo e siamo grati anche dei nostri ospiti che vengono, perché la presentazione di un libro come questo per noi è un'occasione straordinaria di aprirci anche a nuovi pubblici e di conoscere nuove materie, nuove discipline e delle novità che possono circuitare anche qua dentro. Grazie e grazie a tutti quanti voi. Buona serata. Siccome nel libro mi sono stato definito un mulo d'artiglieria da montagna, tocca a me introdurre con due parole. Per ringraziare la dottoressa Trevisan che ci dà questa bellissima ospitalità e il dottor Max Dorfer, presidente dell'Ordine dei Psicologi, che ha accettato di dibattere con la Miriam su questi argomenti. Velocemente pensavamo di procedere così: verrà presentato il libro tra di loro, poi prendiamo un tempo per conversare tra di voi, in modo che, essendo un libro un po' voluminoso, dalle domande sarà possibile poi ricavare delle risposte puntuali. Buon lavoro. Grazie. Bene, il mio ruolo sarà molto semplice, a differenza del suo, e consisterà nel porre delle domande, degli stimoli. Però devo aggiungere ancora qualche cosa alla presentazione che ha fatto lui in quanto marito, e quindi non ha detto di più. Miriam Gandolfi è una delle degli psicologi più importanti che ha avuto l'Alto Adige e che ha l'Alto Adige, ma tra le figure dei psicoterapeuti, anche didatti e autore di studi e di libri, anche dell'Italia. Infatti lei è autore di numerosi di numerosi libri nell'ambito della psicoterapia e della psicologia, e noi abbiamo la fortuna in Alto Adige di avere lei, ma anche suo marito e tutto il suo team qui. Sei da noi. Sei sicuro che sia condivisa questa opinione? Sì, lo è. Prendiamola, ecco. Così se noi prendiamo in mano il libro, se noi prendiamo in mano il libro, vediamo che non soltanto ha 400 pagine, che significa anche tanto lavoro nello scrivere, ma anche molto complessa, data la complessità della disciplina. Quindi una domanda è: che cosa ti ha spinto a scrivere e di fare tutto questo lavoro nello scrivere questo manuale sul cambiamento? Allora, a prescindere dal fatto che io sostengo che chi fa il nostro mestiere non è proprio tutto in asse, quindi una spiegazione potrebbe essere che è una parte della patologia, direi che è nato proprio dalla mia esperienza, diciamo dalla metà del mio lavoro, che non è quello di fare la psicoterapeuta, ma di fare la formatrice. Io sono didatta in una scuola di specializzazione per psicoterapeuti, quindi mi occupo di giovani colleghi che diventeranno psicoterapeuti in questo istituto milanese, istituto europeo di ricerca sistemica, e poi in Alto Adige e anche in Trentino faccio parecchia formazione e soprattutto supervisione di colleghi terapeuti. Bene, direi che questo libro nasce proprio grazie a loro, perché nel momento in cui mi accorgo e mi sono accorta nel corso degli anni che a fronte dell'impegno, degli sforzi, attenzione, anche degli sforzi economici che questo lavoro comporta, sia per i pazienti, gli utenti, le istituzioni e comunque l'insieme, direi che insomma la soddisfazione circa i risultati, ecco perché il tema del cambiamento, no? Che cosa fa sì che un intervento terapeutico, psicoterapeutico, psicologico porti veramente al cambiamento? Ecco, io ho fatto ripetutamente questa esperienza che mi viene riportata dai colleghi. Ci sono degli utenti o dei pazienti che sono pazienti perché fanno esercizio di pazienza, cioè rimangono in condizione di difficoltà per anche decine di anni. Chi lavora nei servizi sociosanitari, ai quali io do supervisione, vedo qui alcuni colleghi, comincia ad avere utenti, pazienti, che arrivano e che sono radicati già in terza generazione, no? Quindi dobbiamo porci una domanda: l'aiuto che noi diamo, anche in termini di salute più ampia, è qualcosa che porta al cambiamento o qualcosa che, non dico proprio danneggia attivamente, ma non consente di uscire da una situazione di sofferenza, di difficoltà, di impossibilità a progettare la propria vita? Ecco, quindi questo mi ha sicuramente spinto. C'è un'altra preoccupazione che chi lavora con me, era per questo che prima ho fatto la battuta e tu lo sai, mi ha spinto a mettere nero su bianco anche delle riflessioni teoriche, perché c'è una parte teorica appunto che anche Max ha definito un po' complessa, ma credo anche comprensibile. L'insoddisfazione circa i risultati che le psicoterapie, perché ricordiamoci che le psicoterapie sono differenti a seconda delle teorie della mente, poi forse capiremo meglio cosa si intende teoria della mente, quindi sono diverse nella tecnica, sono diverse nella tempistica, ma comunque l'insoddisfazione, a mio avviso, che è presente, apre la strada, oltre a, diciamo, anche una fatica, oltre che a un danno per i pazienti, ma anche a una fatica per gli operatori, ad un percorso che non allarma solo me in quanto singolo, non allarma solo la categoria di coloro che si occupano della psicoterapia, ma anche degli psichiatri più oculati, più attenti, che mettono in guardia verso una deriva, vorrei proprio definirla in questa maniera, una deriva organicista che porta a una visione semplificata dell'uomo, della mente, quindi della sofferenza, e tende a riportare quelli che vengono definiti comportamenti inattesi, bizzarri, o se volete definirli patologici, matti, strani, nevrotici, adesso poi potremmo anche discutere sulle parole che usiamo, come delle alterazioni dovute a un qualcosa che non funziona di un singolo elemento. Io stamane ho sentito proprio al telegiornale una notizia dove il giornalista dice: ah, all'Università di San Diego è stata data la notizia che benché il campione sia molto ristretto, non ci hanno detto quanto ristretto, si ritiene che l'autismo non sia dovuto a un danno secondario alla vaccinazione. Nomino l'autismo non solo perché è un argomento del quale mi occupo, ma perché è prototipico di come si tende a banalizzare un problema complessa e importante, ma che sia una disfunzione nella fase gestazionale del bambino. Allora, se andiamo indietro all'infinito e pensiamo che ci sia, che ne so io, un gene piuttosto che ne so io, una proteina o qualunque altra cosa, una singola cosa che ci può spiegare, questa è una forma di banalizzazione che a mio avviso non ci aiuta a introdurre cambiamento. Ecco, quindi devo dire che ci sono psichiatri, vedo qua il collega Claudio, io dico sempre, non so se i medici si offendono quando io dico che sono miei colleghi, però lui ormai mi sopporta da tanti anni, quindi accetta anche questo. Ma quando uno psicologo chiama collega un medico, un onore, non è... Ah dai, vedi cosa si scopre dopo 60 anni, va bene. E quindi tu comunque sai che ci sono fior di psichiatri, perché parliamo per esempio di un Eugenio Borgna, c'era proprio un articolo sull'ultimo numero dell'Espresso dove mette in guardia attraverso questo uso semplificante e semplificato della lettura della sofferenza, no? Dove, che so, una difficoltà postpartum diventa una patologia. Ecco, se arriviamo a questo, naturalmente temo che le possibilità di cambiamento nella direzione del benessere siano molto limitate. Ecco, quindi tutte queste motivazioni mi hanno spinto a fare questa roba che, insomma, ogni tanto mi sono anche pentita, Ma è in questo senso quindi che c'è all'inizio un bizzarro capitolo zero dal titolo Il mistero del pensiero qualunque? Ecco, appunto, tanto per stare nel tema della bizzarria. Sì, è un capitolo zero perché io spiego che prima di occuparsi di che cosa fare bisognerebbe capire a che punto siamo. Allora, se io decido di andare in ferie, che ne so, al mare, bisognerà almeno che sappia se devo andare a nord, a sud, se ci posso andare a piedi piuttosto che in treno, in aereo, cioè devo avere una comprensione complessa di quello che mi consente di raggiungere la mia meta. Ecco, quindi il capitolo zero era proprio cercare di mettere in maniera anche comprensibile le premesse teoriche, rintracciare nella storia della psicologia le premesse di tutte le ricerche che si sono occupate di cosa produce cambiamento nel comportamento umano. E ho fatto delle scoperte molto interessanti. Intanto vorrei precisare che mentre la psicologia è la disciplina che si occupa del comportamento tout court, quindi io direi del comportamento normale o di quelle che io preferisco chiamare le diverse normalità. Allora, per esempio, se io sono un fisiatra o un insegnante di educazione fisica, scusate, e vedo camminare le persone, posso dedurre se quella è una persona che fa vita sedentaria, se ha fatto la ballerina, ha studiato danza classica, piuttosto che ha fatto il nuotatore. Cioè, la gestalt di questo modo di usare il corpo globalmente mi dà un'informazione su come questa persona ha risolto il problema del movimento. Bene, io ho cercato di fare questo, come mi trovassi a fare colui che studia la connessione del corpo, da dove cominciamo? E ho fatto una scoperta molto interessante, ho cercato di capire chi si è occupato dei cambiamenti per definizione. I cambiamenti per definizione sono le invenzioni. Come fa l'uomo a produrre delle invenzioni? Allora, provate a pensarci un attimo. Come ha fatto venire in mente al primo uomo, per esempio, che non so, Leonardo, no? Ha pensato che si potesse volare. Pensate che Leonardo è stato l'inventore dei coperchi, non esistevano i coperchi in cucina prima di lui. Allora, e lui dice: ma perché dobbiamo metterci delle pezze quando poi bisogna lavarle, poi puzzano e poi facciamo una roba più semplice? A lui gli è venuto in mente, eppure la cucina esisteva da mo', ok? Il cucinare. Allora, dove ho trovato l'origine degli studi della psicologia dell'invenzione? Tanto per cambiare, su una disciplina che secondo me è sempre molto interessante, da un matematico, un certo Hadamard, che alla fine dell'Ottocento e primi del Novecento aveva fatto la prima scoperta di quella che poi viene chiamata la teoria sistemica. Apro una parentesi, ormai chi va all'ordine degli psicologi trova, non so, un psicoterapeuta di formazione sistemica, di formazione analitica, di formazione cognitivo-comportamentale, per cui la gente pensa che la sistemica sia una teoria psicologica, una teoria inventata, perché anche questa è un'invenzione, inventata dagli psicologi. No, è stata inventata da questo matematico, da questo Hadamard, che osservando per l'appunto non solo i numeri, ma come si costruivano per esempio le teorie. Voi sapete che poi la matematica è lo strumento con cui la fisica costruisce i propri strumenti di pensiero e di costruzione di modelli di lettura della realtà. E lui ha fatto questa constatazione. Lui dice: chiunque si rende conto che basta un piccolo evento per creare degli effetti enormi, così come a fronte di cambiamenti enormi ci possono essere dei cambiamenti minimi. Questo è una delle leggi fondamentali di quella che poi è diventata la sistemica, applicata alla biologia, applicata all'economia e applicata poi alla psicopatologia e alla terapia, alla psicoterapia. Bene, ho trovato che questo personaggio che cosa ha pensato bene? Di mandare dei questionari a tutti gli scienziati dell'epoca, siamo intorno al 1920, poi lui ha terminato la sua ricerca a cavallo della guerra, quindi la pubblicazione è avvenuta successivamente quando lui era un profugo in America, nel 43, e pensate che noi abbiamo un documento, l'ho riportato nel libro, Einstein gli risponde, perché lui l'ha mandato anche ad Einstein, ed è interessante pensare come una testa e uno che si occupava di cose non banali si sia preso la briga di dare una risposta puntualissima che ci è utile ancora oggi per mettere in evidenza come la mente non è certamente una somma di connessioni neuronali eccetera, perché coinvolge tutto il corpo e in particolare la percezione. Quindi una delle cose fondamentali che io cerco di descrivere e che è stata utile per me è stato capire come i processi percettivi, che sono la via di accesso al mondo, tutti noi non possiamo fare nulla. Il bambino appena esce dalla pancia della mamma immediatamente si adatta, strilla, perché entra in conversazione con il mondo attraverso i suoi apparati percettivi. L'olfatto noi sappiamo che è già subito funzionante, ovviamente la capacità di percepire la temperatura, quindi il tatto, e questo è il percorso di accesso. Quindi mi sono occupata di tutti coloro che hanno studiato l'evoluzione dei processi percettivi. Faremo anche un piccolo giochetto, così alleggeriamo un po' questo discorso, però questo è veramente la cosa fondamentale, cioè non esiste nessun comportamento, nessuno, che non passi prima dalla percezione. Provate a pensare a voi stessi, anche in questo momento, se qualcuno di voi ha caldo, a un certo punto proverà a capire se può togliersi la giacca. Adesso io sto valutando se lo posso fare oppure no, ancora non l'ho deciso. Mentre parlo ho questa informazione percettiva che connetto con l'insieme della situazione. Quindi ho prima una percezione, poi faccio in qualche modo un ragionamento, o meglio, prima provo un'emozione, mi sento a disagio, mi muovo, adesso la posso fare, cioè, faccio un ragionamento e poi solo alla fine deciderò di mettere in atto un comportamento. Ecco allora che se io mi trovo di fronte a una persona che manifesta un comportamento che all'osservazione viene definito come bizzarro, patologico o, come si usa dire oggi appunto nel DSM, inatteso, io non penso che quello sia un comportamento patologico. Penso che abbia un significato, che si è, non sono solo io che lo penso, cioè io ho tirato fuori, ho rubato da tutte le parti, ma che questo sia l'effetto di una connessione, di un circuito tra aver percepito qualcosa, aver provato un'emozione, dopo l'emozione faccio un ragionamento. Allora, se io vedo un cane, ho paura di un cane, decido cosa farò, se giro alla larga, se voglio vincere la mia paura, Solo dopo metterò in atto il comportamento. Ecco, e all'interno di questo circuito circolare è sempre interconnesso, mi sentirete usare spesso questa parola, che anche quello che viene definito un comportamento problematico di sofferenza prima deve essere capito e poi eventualmente modificato. Ecco, se posso dire, appunto, il problema che noi stiamo vivendo adesso è che la psichiatria organicista, cioè quella che si identifica di più con l'aspetto medico, tende a identificare la mente con il cervello, mentre invece la psicologia, come la psichiatria che si occupa degli aspetti psicologici, tende a valutarlo in questi termini. Ecco, e questo è un dibattito assolutamente aperto, anzi forse adesso più aperto che qualche decennio, ventennio fa. E se tu dovessi scegliere tre termini o tre concetti per spiegare questo, per far comprendere questo salto concettuale? Allora, intanto allora, userei sicuramente prima di tutto il concetto di mente conversazionale. Chiedo al mio mulo qua se mi... Non è una battuta, perché poi c'è un caso che ha un titolo così nel libro, no? Cioè, che ne sarebbe dell'artiglieria da montagna se non ci fossero i muli. Successivamente il mio, come lo chiamo, consorte, cogenitore, coterapeuta, mi ha spiegato che nell'artiglieria da montagna il mulo è più importante del generale. Cioè, se sei in montagna e devi salvare il generale o il mulo, salvi il mulo. Quindi, ecco, e vedremo come in questa logica spesso coloro che sono definiti i pazienti disfunzionanti hanno una funzione di mulo, cioè diventano in qualche maniera un catalizzatore, diventano un'occasione di collegamento, eccetera. Quindi magari su questo poi ci ritorniamo. Allora rimango, perché sennò mi perdo, scusate, al tema di a questo termine di mente conversazionale, che è un termine che io ho coniato nel corso degli anni. Adesso, tu hai detto che ho scritto tanti libri, non ho scritti tanti, però qualcuno sì, quello precedente spiegavo appunto come nel bambino si costruisce la mente conversazionale. Che cosa significa? Faccio prima un esempio che riporto anche nel libro, ma i bambini secondo me ci insegnano tantissime cose. Chi ha figli e bimbi piccoli, o comunque magari nipoti eccetera, sa che un'attrazione fatale per il bambino sui 18-20 mesi, cioè quando si muove, è la tazza del water, e l'idea che la tazza del water sia un luogo dove si può fare bucato, o col teddy bear, o con le tazzine, o con qualcosa. Non so se voi l'abbiate sperimentato, ma io ho questa esperienza, mi è stata insegnata dalle mie figlie questa cosa. Quindi che cosa succede? Il bambino parte, va, è tutto intento, è anche contento, sente la mamma che arriva, la guarda, come dire, guarda che bravo che sono stato. La mamma non dimostra lo stesso entusiasmo, chiaramente. Non... Allora, a 20 mesi io non posso spiegare a un bambino che nel water ci sono, e dove si fa la cacca, la pipì, e dopo ti ammali, non va bene, ti metti le mani in bocca, anche se la mamma dice queste cose, no? Magari dice sporcaccione. Il bambino ancora non sa bene cosa vuol dire a quell'età, ma capisce, percepisce dalla vista, dal tono, eccetera, che in quel momento non lui ha fatto una roba sporca, sbagliata, in attesa per l'adulto, perché per noi è in attesa finché hai soltanto un figlio o finché non ne hai, dopo lo sai che devi stare attento, che lui mette in pericolo la sua relazione di appartenenza con la mamma o con l'adulto che per lui è importante. Cioè, per lui essere il bambino accolto dalla sua mamma è più importante che continuare con quel gioco. Poi magari ci riprova di nascosto, ma questo fa parte dei processi di scoperta e di invenzione, quelli di cui parlava anche Einstein e Adamant. Allora, questo vedremo come Parlare di mente conversazionale significa parlare sia in termini soggettivi e individuali. Noi siamo in conversazione con il mondo attraverso il nostro apparato fisico e fisiologico. Questo significa che chi si occupa di patologia o di psicopatologia deve essere molto competente, soprattutto se parliamo di bambini, ma non solo, di com'è funzionante l'apparato di quella persona. Allora, io che da sempre lavoro in ambito riabilitativo, perché è stato il mio primo amore e lo mantengo, non mi occupo solo di bambini che sono nati con difficoltà, ci occupiamo sempre di più di adulti, per esempio post traumatizzati, incidenti di montagna, incidenti stradali, eccetera. Allora, pensate cosa significa una persona che fino a quel momento era in grado di muoversi, di percepire, di sentire, di vedere, e da un certo momento in poi, oppure nasce con un modo di percepire il mondo completamente diverso. Allora, la percezione è la prima porta attraverso cui ognuno di noi sta in conversazione col mondo. Quindi, primo concetto di mente conversazionale in termini soggettivi personali. Secondo aspetto, appunto, conversazionale, questo che vi dicevo del bambino che vede la mamma. E faccio un altro esempio che può esulare dall'aspetto, come dire, di costruzione della mente. Proprio in questi giorni avevo avuto delle sedute con una giovane signora che è venuta perché doveva capire, tra l'altro, un problema che aveva sul lavoro. Lei dice: io ho capito che questo problema che ho sul lavoro deve avere a che fare con una questione mia preesistente. Appunto, faccio la raccolta dati, eccetera eccetera, e poi dico a questa persona, dico: vede, lei è cresciuta, ha una storia alle spalle dove per lei evitare che qualcuno potesse soffrire, aveva avuto una mamma che ha avuto un incidente stradale, a proposito, gravissimo, lei quindicenne, era quella che si era insieme al padre occupata non sapevano neanche se sarebbe sopravvissuta questa madre, quindi fratello più piccolo era stato mandato via perché non fosse coinvolto, eccetera eccetera, una famiglia virgolette sana, ma che aveva dovuto far fronte, organizzarsi rispetto a questo problema. Bene, questa signora aveva, come dire, si era costruita, la sua conversazione con il mondo era: se non ci penso io succede una catastrofe, e per lei questo era vero. Questo, ormai la sua mamma si è ripresa, lei aveva 15 anni, adesso lei ne ha quasi 40, c'è una famiglia, c'ha dei figli, eccetera. Quando io le dico: senta, ma lei quando deve dire qualcosa che le dà fastidio a qualcuno, come fa? Allora lei dice: beh, sul lavoro ci riesco. Dico: ma ci riesce con tutti? Ah, dice: col mio compagno no, perché ho paura che poi lui stia male. Dico: ma lei gliel'ha chiesto se lui starebbe così male che magari dopo, non so, o la lascia o muore? Allora, vedete, questa signora aveva imparato a costruire la sua conversazione con il mondo preoccupandosi sempre che le sue azioni avrebbero potuto avere delle gravi conseguenze per gli altri, e senza accorgersi continuava con questo tipo di conversazione. Questi sono ancora degli esempi che appartengono forse a ciascuno di noi. Ecco perché dico la mente qualunque, ecco perché prima occupiamoci di una teoria della mente, appunto, preferisco chiamarla qualunque, non normale, no? Cioè delle menti che sono normalmente diverse tra loro, perché ognuna nasce con un bagaglio fisiologico diverso, in un contesto diverso, con una storia diversa, e tutte queste variabili interagiscono simultaneamente. Io dico sempre che la mente è un po' come una torta. La torta non è la somma degli ingredienti, è la qualità della farina, ma è anche come viene impastata, se prima le uova, dopo lo zucchero, no? Allora, il processo di costruzione simultaneo e poi la cottura, no? Se io continuo ad aprire e chiudere il forno, quella torta lì non viene, anche se io l'ho eseguita nella migliore dei modi. Quindi vedete il processo e l'insieme di tutte queste variabili. Allora, vi ho riportato questo schema, spero che non sia, come dire, troppo astratto, ma ci tengo a presentare questa cosa, perché quando dico mente cartesiana Mi riferisco al modo classico con cui tutte le teorie psicologiche, fino alla teoria sistemica, di cui noi consideriamo, come dire, come per la psicanalisi consideriamo Freud, con tutte poi le evoluzioni, gli altri personaggi, eccetera, per l'approccio cognitivo comportamentale, allora il padre padre padre è Pavlov e poi Skinner, per dire, e poi ci sono tutte le evoluzioni e sono cambiate nel tempo, eccetera, ma entrambi questi modelli, che sono quelli diciamo fondamentali che conosciamo tutti, fanno riferimento a un concetto di mente cartesiana, cioè dove in qualche maniera la mente e il corpo sono in un certo senso separate, cioè io posso avere degli effetti del corpo sulla mente o della mente sul corpo, però in un modo, come dire, lineare, no? Allora l'idea di trauma: un bambino perde la mamma, oppure adesso per fortuna non si dice più, o comunque non così tanto, un bambino ha genitori separati, chi fa l'insegnante sa che una ventina d'anni fa, 10 anni fa, bambino con genitori separati, bambino problematico. Adesso, siccome si è visto che non è vero, né che quelli con i genitori non separati non lo siano, né che quelli con i genitori separati lo siano, vedete, la teoria sistemica di Adamar la vediamo applicata qui, stessa causa, effetti diversi. Quindi non è così lineare la connessione. Ecco, allora, comunque la cosa fondamentale è che in questa lettura la mente è individuale, cioè anche noi nel nostro linguaggio comune noi pensiamo sempre che la mente ci appartiene, noi diciamo ma io ho questo carattere, io sono un tipo impulsivo, oppure anche per esempio nella terapia si tende prevalentemente a dire, non so, è mia moglie che è nevrastenica, il marito dice senti tesoro vai, oppure non so, beh certo è arrivata la menopausa, bisogna che vada perché insomma il marito non ce la fa più, oppure se entriamo in una patologia più importante, gli adolescenti, non so, prendiamo un disturbo alimentare restrittivo, l'anoressia, no? La famiglia funziona benissimo, è la ragazzina che ha dei problemi, quindi dobbiamo mandarla in terapia. Torno indietro, un argomento che a me sta molto a cuore, colgo l'occasione per dire che abbiamo degli ospiti, avremo un ospite importante il 7 di maggio, Robert Whittaker, che è un giornalista scientifico d'inchiesta che per esempio ha affrontato il problema del trattamento farmacologico nei bambini e sarà ospite anche per una conferenza cittadina il 7 di maggio. Allora, il bambino a scuola è agitato, è attivo, è disattento, e è lui che ha una malattia e perciò viene anche trattato farmacologicamente, cioè il problema appartiene all'individuo. Invece nella mente conversazionale voi capite che se è vero che quello che avviene, che si costruisce, è la conversazione, pensate al bambino con la mamma che lo guarda, oppure non so, anche una qualcosa della vostra vita, parliamo di intersoggettività primaria. Questo è un concetto che è stato formulato in psicologia e non nella psicopatologia agli inizi degli anni 90. Adesso non sto a dirvi gli autori, però sono state fatte delle ricerche molto interessanti, per la verità anche già un po' prima, io lo cito sempre questo esempio, si è visto che registrando la situazione di allattamento di un bambino appena nato con la mamma, è il bambino che addestra la mamma ai ritmi dell'allattamento e non la mamma il bambino. Quindi questo, vedete, ci dice come la mente, la conversazione tra quella mamma e quel bambino costruisce sia la mente del bambino che la mente della mamma. Allora provate a pensare, una mamma che prova ad allattare il suo bambino, arriva la sua mamma o la suocera, non devo andare avanti? E qui arriva un altro punto, vedremo forse più avanti, che la conversazione non è mai una conversazione a due, ma è sempre almeno a tre, no? Allora la mamma dice: possibile che devo sempre io mandare a letto i bambini? Non puoi mandarli tu una volta a letto i bambini? e il marito dice ma obbediscono di più a te. Allora poi la mamma dice bene, io adesso non faccio più nulla. E poi il padre dice va bene, li metto a letto io. E poi la madre dice ma no, così devi fare come dico io. È vero, è vero, la mente qualunque ce l'abbiamo tutti, per fortuna un pezzo di mente, di cervello c'è ancora rimasto. Allora, questo per dire che cambia la lettura. È il bambino che non dorme, bambini a cui viene prescritta la melatonina a 10 mesi perché non dorme. Oppure dovremmo osservare la conversazione che si... Per la carità, magari quel bambino c'ha mal di pancia, c'ha, non lo so, voglio dire, ho appena detto prima che non è o la mente o il corpo, vedete, la mente e il corpo stanno comunque sempre insieme. Quindi qui parliamo in questa lettura di scatola nera che produce comportamenti, cioè quando c'è un comportamento... Io stamane, tornando da Ponte Talvera, ho incontrato un signore che credo anche voi incontriate spesso, perché ormai è un pezzo di arredamento urbano. È un signore che parla ad alta voce sull'inevitabilità della morte. Ecco. Allora voi lo incontrate e dite, poveretto, è fuori, innocuo, tra l'altro persona molto educata, perché a volte anche vi ferma e vi fa i conti, no? Vi chiede... Però noi pensiamo che quello che si vede fuori, non possiamo sapere cosa gli è saltato dentro, no? Cioè è saltato un circuito, lo vediamo, ma è una roba insensata. Viceversa, in quello che chiamiamo termine ecologico, attenzione, non ha niente a che vedere con l'erba, ma anche l'ecologia in realtà non ha a che vedere con l'erba, ma con l'interconnessione, questo lo rivedremo poi. Allora, il discorso del bambino, no? Vede la mamma arrabbiata, il bambino attribuisce subito un significato a quella situazione. Se io faccio questa cosa, so che la mamma si arrabbierà con me. Il giorno che voglio far arrabbiare la mamma, allora, forse non lava più nel water, perché dopo un po' impara che la cacca va lì. Però pensate ai compiti. Problema continuamente emergente, sempre più emergente, che viene ormai patologizzato. Se io non faccio i compiti, so che la mia mamma starà 2 ore seduta di fianco a me. Allora quel comportamento acquista, non è il comportamento, non è uno che non fa i compiti, non è uno che spara i numeri, ha un significato, e un significato dentro la relazione. Poi vediamo, in questa situazione passato e presente sono disposti linearmente. Questo fa riferimento per esempio al concetto di trauma, no? Allora, mi è capitato un evento, non so, i genitori sono separati, quel bambino è in difficoltà, oppure mi è morto un genitore, sono stato licenziato, avete visto adesso tutta la... purtroppo la tragedia dei suicidi legati alla crisi economica. Ha perso il lavoro, si è suicidato. Teniamo presente anche qua, molte persone hanno perso il lavoro e non si sono suicidate, per fortuna, così come molte persone si suicidano pur vivendo in condizioni. Allora, vedete di nuovo quel discorso che vi facevo di Adam. Scusate, adesso mi devo levare la giacca, è troppo, la percezione mi dice che lo devo fare. Ecco, quindi in questo caso passato e futuro sono intrecciati nel presente. Vi facevo l'esempio della signora che dice adesso mi accorgo che evito di criticare o di discutere mio marito perché penso che sarebbe una tragedia, ma lei non sa che è veramente una tragedia, cioè lei continua oggi nel presente, nel qui ed ora, a comportarsi come se vivesse realmente là in quel passato. E torno alla percezione. Sarà capitato anche a voi, io ho un problema di olfatto molto sviluppato e ci sono delle situazioni, degli odori che io non posso tollerare, proprio perché mi riportano in un tempo, in un luogo, in una situazione della mia vita che per me è intollerabile. Per esempio dopo la gravidanza, che per me è stato difficile dal punto di vista dello stomaco, ho dovuto eliminare tutti gli abiti che usavo durante la gravidanza, perché l'odore dei tessuti per me era essere in gravidanza, non era la memoria. Allora vedete, il tema del passato e presente che sono compresenti, quindi non linearmente connessi ma compresenti. Ecco, poi in questa lettura vedete il ragionamento è la funzione che viene privilegiata. Allora, provate a pensare quante volte si spiega a un bambino che se lui non fa i compiti poi a scuola prende un brutto voto, poi, oppure che se uno ha un comportamento... Pensate al problema delle dipendenze da gioco, altra cosa emergente, no? Allora, spiegare a una persona che se poi comincia a giocare sarà pieno di debiti, la moglie lo abbandona o il marito, perché anche le donne sono eccetera. Quindi spiego con il ragionamento che quel comportamento non è più da... noi sappiamo che è totalmente fallimentare, ecco, vedete, questo non procura cambiamento. Invece vedremo come in questa visione costruisce... Ti ringrazio. Allora, mi fermo qua, perché questo è un punto cruciale. Invece che ragionare, dobbiamo... lavoriamo sulla percezione. Piccolissimo esempio, noi abbiamo lo studio con una targhetta con la porta, scritto sulla porta, tirare. I pazienti spingono. Adesso in banca si aprono automaticamente, ma è così, no? Allora, è solo quando io inglobo l'informazione che cambio il comportamento, altrimenti lo ripeto anche se è privo di successo. Ecco, quindi adesso magari non vado oltre, perché altrimenti l'ultimo punto, in questa visione appunto la mente e il corpo sono collegati, ma in un certo senso è come se non fossero la stessa cosa. Viceversa, vedete, mentre qui è la mente che sta dentro il corpo, noi spesso diciamo dentro il cervello, qui invece è il corpo che sta nella mente. L'immagine che noi abbiamo del nostro corpo è molto più importante di com'è realmente il nostro corpo, e questo per chi per esempio si occupa di riabilitazione ha delle implicazioni molto importanti. Ecco, mi fermo qui. Poi c'è il tema dell'appartenenza, la terza parola, tu mi hai chiesto, scusami, appartenenza e autodefinizione. Ho fatto prima un accenno, ma non mi dilungo perché non ho il tempo. In ogni caso, ciò che garantisce la sopravvivenza di ogni vivente è la certezza di appartenere a un altro vivente. Non esiste possibilità di vita senza la percezione che noi apparteniamo a qualcuno. Questo vale per il bambino, ma vale per le altre persone. Allora, se l'unico modo di appartenere a qualcuno è essere una persona in difficoltà, penso di nuovo a una situazione di una persona con un incidente, frattura multipla delle gambe, gambe aggiustate, dice che non può camminare. Dice che non può camminare. E questo che cosa significa? Che mantiene uno schema di legame, di conversazione con l'accuditore, che ha costruito la sua identità. Il tema dell'appartenenza è un tema cruciale. E infine la perturbazione. Questo invece ci andiamo, perché in una maniera simpatica ci aiuta a capire questo concetto. Allora, esiste il cambiamento in cui io insisto, no? La forza di volontà, dove io dico sforzati, ripeti, ti spiego, ti dico che hai fatto un errore, cerco di spiegare, che so, a mio marito che se lui non si occupa dei bambini, poi quei bambini quando saranno grandi non si occupa, e nulla succede, ok? Bene, allora se io qua vi dico, che cosa vedete? La natura morta. Arcimboldo è l'autore, non è un test psicologico, è Arcimboldo, che voi sapete era un grande amante delle nature eccetera. Allora, se io vi dicessi, no guardate, non è un cesto, è una persona, siccome voi sapete che Arcimboldo ha fatto delle maschere con, allora voi mi dite che questo è uno di quei dipinti, o mi dite che qua mi sono sbagliata, ho messo la slide sbagliata? Che mi sono sbagliata, perché non è una delle maschere di Arcimboldo questa. Rovesciando. Ecco, se noi la rovesciamo viene fuori. Allora, il cambiamento non è uno sforzo, è un cambiamento di punto di vista. Quando ruoto, che cosa cambia? La relazione tra le parti. L'avere sopra o sotto la ciotola cambia la relazione anche tra tutti gli altri elementi. Ecco, questo lavoro è proprio un lavoro su come si costruisce la perturbazione della percezione. Cambiare la percezione di quello che finora ho visto in un modo, improvvisamente, questo è un altro dato, qui il cambiamento è improvviso, non è ti convinco, è improvvisamente vedo la targhetta, tirare. Ecco, questo è il nocciolo di un concetto di cambiamento, che è un cambiamento non lento progressivo, che può essere anche un cambiamento, non è che non esista, ma nelle situazioni di grave difficoltà quello che aiuta è un cambiamento di tipo perturbativo. Ho usato troppo tempo. Se noi guardiamo la copertina del tuo libro, vediamo un lavoro di tessitura. Ora tu affronti tutte le fasi fondamentali del lavoro terapeutico perturbativo paragonandolo ad un lavoro di tessitura. Come mai? Allora, in una delle mie escursioni in una libreria, che è uno dei posti dove insieme ai negozi di tessuti spendo la maggior parte del mio denaro, ho trovato molti anni fa un libro su le stoffe d'arte africane. Io ho un po' la mania della tessitura, l'ho ereditata, avevo una nonna che aveva un telaio, eccetera, ogni pezzettino di stoffa per me è interessante. Quindi questo libro mi ha assolutamente affascinato. Qui trovate, è un pezzo che sta proprio dentro nel libro e che gentilmente questa collega, la professoressa Telfner, ha estrapolato nella presentazione che ha fatto per la rivista di terapia familiare. Mi limito solo questo a dire, questo tessuto che voi vedete anche qui è un'invenzione che è stata fatta da questo e che per me rappresenta proprio la metafora di che cosa vuol dire costruire un processo psicoterapeutico. Non spieghi, non convinci, non dai consigli, non sei tu quello che sa e che aggiusta quell'altro che è rotto, che non sa. Dottoressa, mi dica cosa devo fare. Dico, guardi, questo non sono la persona giusta per lei se è questo. Chi mi conosce lo sa, che questo me lo sente sempre dire, sia che siano colleghi sia che siano pazienti. Perché ho scelto questa metafora? Perché pensate, questa popolazione, la popolazione Ashanti, che era, perché ormai purtroppo è una popolazione ricchissima del Corno d'Africa, quella della attuale Guinea, intorno al 1600 aveva dei traffici importantissimi con tutti i paesi dell'Europa, diciamo, che produceva tessuti. Allora c'era la seta, i tessuti, provate a immaginare Venezia che tessuti poteva avere, l'Olanda, anche le sete indiane arrivavano chiaramente per fare degli scambi commerciali. E che cosa faceva questa popolazione che viceversa coltivava il cotone e aveva la lana ed era in grado di tessere cotone e lana? Acquistava le pezze, le disfaceva e recuperava il filo di questa dunque pensate la perizia di una cosa del genere, e poi che cosa faceva? La mischiava facendo delle strisce, perché i loro filati erano resistenti ma non avevano brillantezza, colori brillanti, e quindi mischiavano questi due tipi di materiali. Ecco, io ritengo che questo è esattamente quello che deve succedere, una competenza che è quella che ha il paziente o il sistema familiare se viene una famiglia, e quella che deve avere anche l'operatore, ma è solo nella conversazione, nell'annodatura di queste due competenze che posso produrre qualcosa di buono, di utile, possibilmente anche di bello. Ora, il tuo libro contiene molti casi a scopo esplicativo, e questo è bene per il lettore, e ben tre di questi casi si riferiscono a disturbi alimentari, anoressici restrittivi, e sono tutti corredati dell'indicazione delle ore di lavoro e dei follow up. Qual è la funzione di questo? Allora, velocemente, la scelta dei tre casi di anoressia sono dovuti sia al fatto che me ne occupo molto, me ne sono occupata molto. Anzi, oggi avevo invitato anche la dottoressa Zaro, che è la responsabile del servizio per i disturbi alimentari di Merano, con la quale collaboro ormai da anni. Per la supervisione c'è qui qualche collega e lavoriamo molto bene. Quindi, uno, perché è un argomento che da sempre, ancora quando lavoravo in reparto pediatrico con Mengarda come primario, è stata una tematica di cui mi sono occupata. Due, perché il disturbo alimentare, in particolare restrittivo, è un tipo di disturbo che insegna moltissimo ai terapeuti. È molto complesso, ma è veramente una miniera di apprendimento. Non è un caso che proprio i disturbi alimentari sono stati i primi casi che hanno consentito di costruire il modello sistemico, il cosiddetto modello milanese, di cui Mara Selvini Palazzoli è considerata la madre. Ogni tanto ci abbiamo anche una madre, non solo i padri del... E dunque è un campo elettivo, soprattutto per questo tipo di terapia. Attenzione, ci sono altri tipi di terapia che possono funzionare molto bene per alcuni tipi di disturbi, di difficoltà. In questo caso, dal mio punto di vista, questo tipo di approccio è veramente un approccio elettivo. Il fatto di aver messo le ore, allora, uno, perché nonostante tutto a me mi è rimasta anche l'anima del dipendente pubblico, o forse il fatto che sono figlia di un commerciante, quindi non lo so, ma attenzione, uno dei problemi, cioè lo accennavo prima, no? Gli aspetti dei costi. Accennavo prima a questi cambiamenti anche della teoria della complessità, che ormai hanno toccato anche nati in economia, per esempio. Non è una polemica politica, ma noi abbiamo visto come, per esempio, la cosiddetta riforma Fornero ha toccato un problema catastrofe, vedete l'interconnessione, no? E lì nell'economia noi capiamo, lì lo vediamo subito quando abbiamo creato un danno, perché purtroppo quello poi ha tutta una serie di effetti. Allora, i tagli, i costi della sanità, allora bisogna fare in fretta, allora perché perdere tempo con le sedute? No, facciamo la diagnosi, diamo il farmaco. Ecco, io credo qua di dimostrare che in realtà con questo tipo di intervento si risparmia anche denaro, dove il denaro va considerato nel lungo tempo sul paziente, nelle persone che sono vicine a colui che viene definito paziente, perché anche quello è un costo umano, sociale ed economico. E io credo che tutti gli operatori, non solo quelli della sanità ma anche quelli della sanità, dovrebbero abituarsi a documentare il loro lavoro. Il follow up è anche per questo, cioè c'è un tempo oltre il quale io devo valutare se questo lavoro ha funzionato. Solo così si può fare un confronto su dei metodi, per esempio. Ecco, quindi era un po' anche, se vuoi, una un'informazione ma anche una provocazione. Nel tuo libro c'è spesso il termine connessionismo. Io penso che per i presenti potrebbe essere utile se tu ci aiutassi a comprendere questo termine. Una parolaccia in più. Allora, faccio riferimento al concetto di conversazione. È evidente che non c'è conversazione senza connessione. Non posso conversare. Se qualcuno di voi ha visto recentemente il film, non ricordo adesso il regista, qualcuno di voi l'ha visto. Ecco, la conversazione con un computer serve a vivere, non si può vivere senza conversazione. E noi diciamo col computer: sei connesso? No? Ecco. Allora, la connessione è quello che consente la vita agli esseri viventi. E io ho fatto uno sforzo in questo libro, ve l'ho già detto, siccome considero i non psi, io li chiamo scherzosamente gli psi, no? Allora sono gli psichiatri, gli psicologi, gli assistenti sociali, gli psicopedagogi, gli psi, io penso che sono i meno affidabili. Mi fido sempre di più di qualcuno che fa altre, allora ci trovate delle cose, dei fisici, dei genetisti, questo è un matematico, e mi pareva che con la sintesi tipica della matematica si capisse qual è la differenza tra una visione che parcellizza, allora sei agitato, agiamo sull'agitazione, sei triste, agiamo sulla tristezza. Ecco, questo che è un matematico, Ralph Abram, e dice: il connessionismo è un modo per trasformare i limoni della tecnologia delle scienze riduzioniste in una limonata che prefigura un futuro sostenibile. Si spera anche un po' dolce. Basta. Ecco, se ci fosse qualche domanda, che forse abbiamo dovuto dire tantissime cose, mi farebbe molto piacere. È rimasto sospeso il discorso di quel signore che tutti incontriamo. Lei l'ha interrotto. Vorrei sentire, per favore, mi è rimasto interrotto o io non ho capito? Allora, attenzione, quel signore io lo conosco come lo conoscete voi, cioè il percorso, se uno abita in questa zona sa che lo incontra. Non conosco la sua storia, quindi, e questo è un altro punto importante, ne discutevo prima con Max, un attimo prima di entrare, dove Max diceva: tu poni l'accento sulle domande, no? Allora, le domande servono a smattassare la stoffa, a capire da dove viene quella stoffa. Allora, di quel signore non posso rispondere, però le potrei dire: mi è capitata per esempio una ragazzina, 17 anni, che arriva dopo aver fatto un ricovero pronto soccorso e poi in reparto psichiatrico, poi i genitori mi contattano, lei viene ricoverata perché a un certo punto lei afferma, agitatissima, che c'è un attacco dei marziani su Bolzano, era sulle passeggiate del Talvera, e quindi lei corre disperatamente a casa per avvisare sua madre dicendole: guarda, bisogna fare qualcosa perché qui questi ci sterminano. Allora, io posso pensare che lei semplicemente, non so, le è uscita una rotella, ha avuto due, non so, si è fatta 7.000 canne, non lo so, una qualunque cosa, per cui il suo cervello non funziona più. Questa è una lettura possibile. Nel momento in cui io conosco questa storia, cioè posso fare le domande sul perché lei pensa che ci sia un attacco dei marziani, quando loro arrivano, lei è figlia unica, loro arrivano in studio da me, lei già dice: io ho delirato, però là io ero convinta che fossero i marziani, mi hanno detto che era un delirio, ma chi delira come questo signore dice là c'era. Allora, nel discorso del qui ed ora là, allora la mia domanda è: che cosa succede a questa ragazza per cui lei ha l'impressione che ci sia un attacco del nemico che sta sterminando la sua città e che mette in pericolo una persona per lei cara? Allora, se faccio delle domande, e qui adesso non posso entrare nell'aspetto tecnico, ma ci sono delle tipologie di domande, io in ogni capitolo affronto il tipo di domande a seconda della fase della terapia. Bene, questa ragazzina aveva un'incombenza, nel corso degli anni si era assunta, o le era stata data, perché è reciproca, no? È conversazionale questa incombenza, per cui lei doveva occuparsi per esempio di una zia che era rimasta, una sorella della mamma, che era rimasta vedova, e da quando era rimasta vedova non era più riuscita nemmeno a cambiare il tipo di lenzuola che usava nel letto. Questa ragazzina era mandata regolarmente, ogni un tot, a dormire da questa zia perché stava male. Quindi questa zia, perché sennò poveretta la zia non si ripiglierà mai più, era già morto da un pezzo questo zio. E le lenzuola erano sempre le stesse? Non sempre le stesse lavate, ma sempre le stesse. Cioè, il tempo era fermo. Dopodiché c'erano altre vicende che riguardavano per esempio la famiglia del papà, questa era della famiglia della mamma. Infatti in questo approccio bisogna considerare tutta la rete storica relazionale. Allora, non i marziani, ma un nemico che lei aveva la responsabilità di proteggere delle persone più grandi di lei. E a 15 anni questo è un lavoro immane. Guardate che io dico sempre: quando un bambino ha dei comportamenti bizzarri, provate a chiedergli, lui vi risponderà sempre a tono, vi dirà sempre che lui ha fatto una cosa perché ha pensato che. Del resto, chi ha un cane, da me arrivano anche con i cani in terapia e io li considero un membro della famiglia a tutti gli effetti, Se il cane si accorge che, non so, uno della famiglia magari piange, si alza, mi guarda. Io non ho paura dei cani, li amo molto, quindi non mi ha ancora mai azzannato nessuno, ma mi guarda, come dire, guarda che se insisti devi passare sul mio cadavere. Allora, questo che cosa ci dice? Che la percezione di un problema, corretto o scorretta che sia la percezione, genera un comportamento. Allora, per quella ragazzina parlare dei marziani era con una coppia genitoriale che, benché separata da che lei era nata, continuava a vivere un po' separata, un po' no, e lei doveva evitare che loro litigassero. Quindi, man mano che andiamo avanti, che cosa emerge? Che lei questa minaccia la viveva tutti i giorni e ne portava la responsabilità. Ma benché lei dicesse delle cose, questo non veniva ascoltato. Se lei diceva: ma io non c'ho voglia di andare dalla zia a dormire, ma dai, poveretta, la zia cosa ti costa? Io sono stufa, il papà mi ha detto che, vabbè, insomma, sappiamo che cosa succede in situazioni di separazione conflittuale. E lei dicesse: insomma, io sono stufo che tu mi dici che devo andare a dire al papà che, non so, non ha versato gli alimenti. Ma per questo lei non veniva ascoltata. Quando ha detto che sono arrivati i marziani, finalmente l'hanno ascoltata. Purtroppo, allora, il problema doveva risolverne un altro, ma non è che i genitori erano cattivi, non lo vedevano. Non vedevano, pensavano di vedere una cosa, ne vedevano un'altra. Anche qui non è colpa di, no? È il tipo di connessione che deve essere capita. Prego. Non sono del settore del ramo, per cui posso dire anche una cretinata, però mi ha colpito molto l'accento che lei ha messo sul fatto che il comportamento è dato da emozione e ragionamento, insomma, emozione, percezione, non so, percezione, emozione, ragionamento e poi comportamento. Mi sembra di aver capito che lei ha detto che è importante ragionare, vedere, capire prima l'emozione, questa, sì, questa successione. E forse che a volte succede che si agisca solo sul comportamento senza ragionare su questi altri precedenti? Sì, sì, assolutamente. Allora, questa è la differenza tra un, allora, in termine virgolette tecnico, sì, è la distinzione tra un comportamento prescrittivo. Allora, se io dico a un ragazzino, so che lei fa l'insegnante, allora, dico a un ragazzino: guarda, se continui a fare lo stupido, io ti mando fuori. Allora, ragazzino sta zitto 2 minuti, poi, non so, butta, fa. L'insegnante dice: guarda, questa è l'ultima volta che te lo dico, se lo fai, vai fuori. Lo rifà. L'insegnante dice: beh, adesso pigli e vai fuori. Allora, domanda. Uno, non è che magari quel ragazzino voleva andare fuori? Spesso è così, perché poi, visto che questo è un punto che a me sta molto a cuore, anche perché io ho proprio cominciato lavorando con l'inserimento scolastico quando c'erano ancora le classi speciali, proprio col dottor Angelo facevamo le nottate fino all'una, alle 2 di notte per convincere la scuola elementare a cominciare ad aprire alle sezioni integrate. Nel momento in cui un ragazzino va fuori e poi riceve l'insegnante magari d'appoggio o l'assistente che gli dice: beh, dai, andiamo a fare un giretto, ci facciamo tutti i piani, oppure dai, vieni qua che ti così dopo, voi capite che il ragazzino è intelligente. E qui cambia il concetto di intelligenza, perché noi pensiamo che l'intelligenza sia qui andremo, magari faremo un'altra conferenza se ci ospita, io come vede mi dilungo. E allora questo è quel comportamento, certo che è disturbante, ma io devo chiedermi che significato ha e soprattutto che altro problema risolve. Questa è un'altra cosa che noi non abbiamo in mente, che un problema ne risolve un altro. Se mi consentite, siamo tutti noi alle prese con la raccolta differenziata dei rifiuti. Io ho la fissa, le mie figlie sempre mi dicevano anni fa: ma tu mamma quanto rompi, che dobbiamo, allora non era obbligatoria, adesso è obbligatoria. Allora, Voi sapete che ci hanno fatto la scuola della raccolta differenziata del biomul e poi ci hanno detto niente uova, non potete mettere, che uno dice ma perché non posso mettere il guscio dell'uovo? È un problema, ne deve risolvere un altro. Abbiamo saputo che è perché la discarica non dispone del macinatore dei rifiuti. Ecco, vedo. Allora, questo significa che quando c'è una bizzarria dobbiamo sempre chiederci a cos'altro serve. Prego. Ma io voglio rifarmi un po' la prima parte del discorso, perché effettivamente a grandi linee si potrebbe affermare, io sono psicologo, quindi bazzico più un po' di queste cose. Meno male, spero un po' più che bazzicare, no? E insomma, ho sempre avuto un po' la sensazione che la differenza tra psicologia e psichiatria fosse un po' l'inversione causale tra il corpo e il comportamento, per cui certa psichiatria medicista sostiene che noi ci ammaliamo, e sottolineo il termine ammaliamo, di depressione o di ansia perché abbiamo nel corpo delle disfunzioni, e la psicologia sostiene, come del resto ritengo io forse per eccesso di immedesimazione nel mio lavoro, che invece se nasce un problema, se nasce un comportamento, quanto è brutto poi il termine comportamento inatteso, perché si crea un'aspettativa macchinale. È quello ufficiale del DSM, no? Sì, il criterio. Scusate, spiego solo, il DSM, questo è il manuale con cui si viene misurati se si è normali o no. Certo. Detto questo, noi possiamo parlare di disturbi, analizzarli, ma quello che effettivamente andrebbe sempre ribadito, come lei giustamente sta facendo molto bene, è che se nasce un comportamento, per così dire, inatteso e disfunzionale, termine altrettanto brutto, c'è sempre una ragione. L'ansia, la depressione, gli attacchi di panico sono malattie che si prendono perché c'è il bacillo nell'aria o perché girano come l'influenza, ma c'è sempre una situazione di vita a monte che poi sfocia in questo tipo di, chiamiamoli disturbi, ma è brutto anche il termine disturbo, questo tipo di situazione. Diciamo che sono situazioni di vita che potrebbero far paragonare il disturbo a un'infiltrazione d'acqua che sfocia a seconda di come sono fatte le pietre del muro. Sì, sì, no, questa distinzione, io credo che questo dibattito è quello che dobbiamo cercare anche in termini culturali. Io veramente prima ho citato questo articolo che è comparso sull'Espresso di questa settimana, proprio sul DSM, vi invito ad andare a leggerlo, perché guardate, è un momento veramente cruciale, no? Se noi trasformiamo tutto in una malattia, io dico sempre, la sofferenza appartiene alla vita. Appunto Borgna cita Rilke che dice la sofferenza è quello che ci fa sapere che siamo diversi dalle pietre, non dagli animali, perché gli animali soffrono e come e sentono e sappiamo che sono come tutti gli esseri viventi. Questo per esempio è un altro concetto della mente ecologica, no? Cioè l'uomo non è superiore agli animali, come gli animali ha, funziona esattamente come ogni altro essere vivente, e dagli animali possiamo imparare molto. Quindi se noi ragioniamo che è la macchina corpo, del resto scusate, voi guardate le trasmissioni, chiamiamole psicologiche, che girano in televisione, io le considero pornografiche, assolutamente pornografiche, e almeno fossero divertenti, perché uno dice vabbè, se va una roba pornografica magari qualcosa, ecco. Allora, questa però è la cultura che si sta costruendo, no? Per cui, per esempio, qui viene riferito che il medico di base, generico, di famiglia, come lo volete chiamare, avrà il DSM non so, posso darti del tu come collega, arriva magari la persona che dice ma il mio medico mi ha detto vada pure a fare un po' di psicoterapia che fa sempre bene, che comunque sostiene eccetera, ma non lo dico con aria di svalorizzazione, perché per sé basta lavorare, ma soprattutto di questi tempi, ma la questione è, intanto le do il farmaco. Allora, per esempio, il farmaco, io ho fatto un capitolo sull'uso dei farmaci, ci informano di tantissime cose su come il paziente costruisce la sua vita e di come ha bisogno di avere, o come non può tollerare che qualcuno decida per lui. per esempio le persone che soffrono di attacchi di panico, che stanno malissimo, che hanno la vita limitata, sono per fare la diagnosi è facilissimo, basta che uno psichiatra o qualcuno gli prescriva uno psicofarmaco e lui non lo prende. Naturalmente il paziente non lo dice allo psichiatra, perché quando noi glielo chiediamo mi dice: ma è matta, se io glielo dico poi non me lo prescrive più, io ce lo devo avere in tasca, lo prendo al bisogno. Perché per esempio chi soffre di attacchi di panico è una persona che, siccome deve tenere tutto sotto controllo, non può tollerare che il farmaco lo controlli, quindi c'è un rapporto di odio e amore, altri pazienti li pigliano invece. Allora, di nuovo, no? La conversazione con il farmaco mi fa... Però un conto è ragionare che la mente è un modo complesso di stare in contatto, in conversazione con il mondo. Il mondo sono le cose, le persone, gli eventi, la storia, eccetera. Un conto è pensare che basta una molecola. Questa è un'altra notizia che invece l'ho recuperata da Leonardo, sapete che è il giornale scientifico, che a volte ha delle cose interessanti. Allora, finalmente sappiamo perché fare movimento ci fa dimagrire. Quindi, adesso che lo sappiamo, tutti potremo dimagrire. Qual era la spiegazione? Diceva il giornalista, no, perché si sapeva che faceva bene al sistema cardiocircolatorio, eccetera, eccetera. Ma che cosa si è visto? Che facendo questo si modifica la massa bianca e massa scura, eccetera, eccetera. E da cosa dipende questo? Da una molecola. Allora, questo è il riduzionismo. Quando io arrivo a spiegare un evento così complesso, che è la motivazione, dove vivo, che orario faccio, se magari ho due figli che mi aspettano a casa e devo andare a fargli la cena, per cui dopo non è che alle 10 di sera ancora riesco, devo magari stendere il bucato, il massimo di movimento che riesco a fare, no, eccetera, è la molecola. Questo cosa vuol dire? Se prendi la molecola ti risparmi tutto il processo. Ecco, questa è la differenza tra il limone e la limonata, senza riferimenti di altro genere, no? Allora, questo è un problema importante, perché è un problema culturale e le persone devono sapere che c'è questo. Vi segnalo un libro che è uscito recentemente, alla fine del 2013, non so a memoria gli autori, comunque si intitola Slow Medicine. In Piemonte c'è un grandissimo movimento ormai all'interno degli ospedali, non si occupano di psicopatologia, soltanto di malattia del corpo, dove appunto si comincia a ragionare in questa maniera, dove per esempio c'è l'idea che non è vero che più esami clinici fanno più salute. Quindi è un cambiamento culturale, e questo era anche il motivo per cui volentieri ho potuto sfruttare questa occasione, che non era soltanto tra tecnici. Basta. Posso fare una domanda? Io so che sto andando fuori tema, però mi interessa molto la sua opinione. Siccome all'inizio ha parlato dell'autismo, di questo articolo che ha letto adesso... No, l'ho sentito stamane al telegiornale, non ho ancora avuto le fonti, però... Io volevo solo sentire il suo parere sulla polemica vaccino-autismo, se secondo lei può essere prodotto veramente dalle vaccinazioni. Allora, punto primo, non esiste un'unica causa che ci spieghi una qualunque cosa, men che meno l'autismo. Poi, in questo momento sull'autismo, ma ben volentieri, anzi, noi siamo in fase di elaborazione proprio di un lavoro sui bambini, l'autismo è un ambito talmente complesso, va posta diagnosi differenziale. Non tutti quelli che ricevono la diagnosi di autismo rientrano, cioè, ecco, la professionalità e gli strumenti con cui si costruisce una diagnosi sono qualcosa che i cittadini devono pretendere, ecco, la metterei così. Quindi, discorso del vaccino, noi sappiamo da una vita che può avere degli effetti di un tipo, di un altro, come qualunque altro farmaco, eccetera. Che ci sia questa connessione lineare è di principio una sciocchezza, così come ritengo l'altra una sciocchezza. Io personalmente sono supervisore di un centro che ormai da anni, abbiamo anche fatto un lavoro pubblicato, ospita ragazzi autistici, quindi lo vediamo e si occupa, ed è un modo assolutamente banale di affrontare un problema complesso. Mai essere banali con nessun problema degli esseri viventi. Infatti mi interessava ricordare la qualità di nonna. Com'è che si deve comportare, andare dallo psicologo o dallo psichiatra? Allora, prima di tutto deve farsi qualche domanda a sé e chiedersi che cos'è che non mi sta bene intorno. Se poi non può trovare la risposta, penso agli attacchi di panico, ecco, e non trova un interlocutore, allora io ritengo, cioè da quello che ho detto, ritengo che capire, quindi se andare dallo psichiatra e ricevere un farmaco, che attenzione, io collaboro tranquillamente, anzi ho degli psichiatri con i quali collaboro molto bene e a volte invio i pazienti così come lo psichiatra me li può inviare. Il punto è, l'importante è cercare di capire e non cercare di controllare il sintomo, ma semplicemente quel problema le sta raccontando qualcos'altro di lei, e lei significa della sua cornice conversazionale. Se riesce a capire questo, secondo me può farcela, altrimenti può aumentare i farmaci, può cambiare i farmaci, un po' sparisce, un po' torna. Io credo che senza capire non si cambi un comportamento anche disfunzionale, fastidioso, molto fastidioso. Dobbiamo concludere. Io approfitto di voi per una cosa, dirò dopo. Prima di tutto, questa è una frase che sintetizza il libro, è scritta nel libro. Mentre la leggete vi do una informazione di servizio: se siete interessati a capire il connessionismo, sul sito www.officinadelpensiero.eu c'è una video intervista a lei, non fatta da me. E chi vuole poi dice un segnalibro dove c'è anche il www. Ecco, però approfitto della vostra presenza perché siamo convinti che questo lavoro e tanti altri, forse mi commuovo. Allora non farlo, sennò ci commuoviamo tutti. Non sarebbe stato possibile senza una persona delle tante che ci hanno aiutato e che è poco ricordata. Si chiamava Diego Urieta. Ci hai fatto farmi piangere. Beh, in quel modo la dottoressa Gangolfi, visto che parliamo di connessionismo, la sua mamma putativa, sua Maria Pozzi. Sì, certo, matematica e fisica. Si capisce leggendo il libro. Sicuramente, sicuramente. Grazie che siete rimasti qua tanto a lungo. Grazie, che meraviglia.